10. Ascolta e controlla. Il tempo è bello. Mina, Rosa e Carl sono ragazzi stranieri. Oggi è sabato e i tre amici sono liberi. Sono in piazza per aspettare Sandro, un amico italiano. Mina è una fotografa ed è in Italia per lavoro. Carl è in vacanza in Italia per 3 mesi. Mina e Rosa sono in classe insieme per il corso di italiano. Sandro è in ritardo ed è di corsa. La macchina di Sandro è a 2 passi.